Come va a dire a mia che era un momento giusto per cambiare tutto, era poi giusto giusto lo stesso momento, bini ritte santi, scangiuri i raggeri, mini e va va. Babbiano babbiano aveva 70 anni, sanno tutto uno a capontano una. Scangiuri cento tu era era era era era era. Ora ci la insegnare a funare sti giganti, rumuni più potenti, io giù di a villeggiare, to pure tanto tanto ci viene la pensata, buttare a sta la data, lo so l'ordo e vennero i crocieri, fumero a scaricare, ancora la nave dire, qua era sto ingegnere, callare fa sadare, non sanno che succede, è vero quanto è vero, che mi chiamo a chi ne basura e mezze vere, li facciamo scimunire, magari chiesti tutti pari, accominciano a ballare, se ne avanzo l'uomo luna, li mangiamo a mozzicone, se ne ci usciono i trumette, carregamo gli scopetti, quando d'acqua da la mosca, quando i turbolati, mosca muore solo il generale, manco cerco un ospedale, quando scoppia bene a vino, stuppa una bottiglia di vino, picchia a favole, un altro fuoco a brucia, cavolo e bello, fosse buono, fosse meglio, ma non fa, non ha un ciobetto, amoni, forse accoraggio, sa dall'aria, lui villaggio, cinque e quattro scafazzati, li vacanze marronati, cinque e quattro ammaccatelli, scoppia la pacchetta, daddy shoo shoo shoo shoo, one day bill religious, shoo shoo shoo shoo, a fan banana.